www.redigio.it e la storia continua. Guardate quella cometa, ci sta cadendo in testa. Le prove generali della fine del mondo, ma sono riuscite egregiamente. Non è mancato che un piccolo particolare, la fine del mondo. E così scrive Arnaldo Fraccaroli sul Corriere della Sera, commentando il mancato impatto della cometa di Halley contro la Terra. Impatto che gli scienziati avevano comunque escluso, ma che moltissima gente, un po' per gioco e un po' per sul serio, aveva temuto per la notte fra il 18 e il 19 maggio del 1910. Dalla coda fiammeggiante della stella avevano pronosticato i più pessimisti e si sarebbe sprigionato un gas venefico, il cianogeno, destinato a uccidere l'intera umanità. Tra le 18 comete che a periodi fissi visitano i nostri cieli, così spiega la domenica il Corriere, quella di Halley è la più ardita viaggiatrice e si spinge fin oltre Nettuno ed è anche la più splendente. Il nome l'ha ricevuto da Edmondo Halley, l'astronomo che nel 600 ha scoperto che questi corpi celesti hanno anch'essi una loro orbita esatta e di conseguenza ci appaiono a intermittenze regolari. Questa brilla sulla Terra ogni 76 anni. Le comete sono sempre state guardate come apportatrici di grandi cose, cose brutte di solito e cose liete qualche rara volta. I giornali in questa primavera del 1910 sono andati a spulciare tra le vecchie cronache e hanno trovato terrificanti stampe del 1553, quando apparve, secondo alcuni testimoni di tenebrosa fantasia, una cometa dragonesca, accompagnata dalla testa della Medusa, e la città di Münster andò in fiamme. In tempi più recenti, l'avvicinarsi delle comete aveva già fatto temere la fine del mondo. Nel 1856 e nel 1865, quando una stella di Neumayer era stata attesa, intonando una canzoncina che diceva: «Cadono le città, cadono gli imperi, e tanti bei milioni diventano zeri». Non era caduto nulla al nostro pianeta, ma ciò non aveva fatto certo disarmato i finimondisti. Le loro lugubre previsioni si erano appuntate sulla cometa di Halley e, grande e terribile, con la lunga coda ondeggiante quale fiamme tra le costellazioni, e in attesa appunto per la primavera del 1910. La psicosi non era soltanto italiana. In tutta Europa e in America erano stati segnalati episodi di insana paura, come scrive la domenica del Corriere. Mai così elevata era stata l'affluenza ai confessionali. C'erano state conferenze di dotti astronomi, smentite, inchieste sui giornali. A Chicago, un quotidiano aveva domandato ai suoi lettori che cosa avrebbero fatto nel caso si fosse verificato l'urto. Un'attrice aveva risposto che sarebbe morta volentieri recitando. Un giovane sposo aveva scritto: «Sarei felice di essere travolto con mia moglie in questa grande rovina, purché la coda della cometa risparmiasse generosamente mia suocera. Condurla con noi anche nell'eternità? Ah, già mai!» La sera del 18 maggio, scettici e creduloni hanno affollato le strade della città e chi è in possesso di un'automobile ha raggiunto, con la famiglia al completo, la periferia. Tanto che un cronista, notando quell'affollamento di signori, donne e bambini, negli incredibili pelliccioni che la moda impone quest'anno a chi va in automobile, parla di un'improvvisa invasione di orsi. Ma prima di uscire, molte famiglie hanno provveduto a una precauzione. Le finestre sono state chiuse accuratamente, badando ad eliminare ogni fessura. Perché mai? Ma per proteggere gli appartamenti da quel tal fenomeno dei miasmi della cometa. Così scrive Fraccaroli. Milano aveva stanotte la fisionomia delle grandi notti tradizionali, la fine dell'anno, la fine di Carnevale. Il corso Vittorio Emanuele brulicava di persone. La galleria era già affollata e sotto i portici si procedeva a furia di espedienti e di pestoni che facevano vedere le stelle senza la coda. Da Berlino, Londra, Parigi, Roma, le descrizioni che arrivavano sono simili. Fraccaroli racconta ancora. Alle 10 di sera, in Piazza del Duomo, arrivò perfino una mascherata di astronomi. Sopra un gran tiro a due, dalle lunghe figure barbute, con un immenso cappello conico e dai telescopi che parevano condutture da stufe. Più avanti, sul corso, un ragazzino molto serio, molto vestito di nero, molto carico di cannocchiali, con barba bianca e cappello conico anche lui, e si fermava di tanto in tanto a scrutare il cielo, servendosi anche di un fanaletto rosso per andare a colpo sicuro. E di tanto in tanto passavano delle grosse comitive di giovani cantori che dedicavano alla vecchia cometa dei vecchi moti popolari. Addio, mia bella, addio, la cometa se ne va, ma se partissi anch'io... E l'ultimo verso si perdeva nell'enfasi sonora, ma pare che fosse una viltà. I ristoranti sono affollati di clienti che attendono l'ultima ora banchettando. In qualche locale si possono ordinare portate d'occasione, spezzatini di cometa, scaloppine di cianogeno, gelati alla stella. Alla fine del pasto arriva, come ogni normalissima serata, il conto, non si sa se astronomico. Inesplicabile questa preoccupazione dei proprietari per il conto in una notte di fine mondo, così commenta Fraccaroli, che aggiunge: la psiche dei proprietari è un oscuro mistero. In via Moscova un negoziante aveva esposto ieri questo cartello: ricordatevi che questa notte moriamo tutti, pagate i vostri debiti. Dopo la mezzanotte si brinda sulla continuazione del mondo. Al Kursaal, Diana, comincia una festa cometaria. Si pattina, si balla. All'alba tutto è finito. Conclude Fraccaroli. Per le vie c'è ancora della folla e sbadigliano le ultime canzoni. Ma ormai cominciano i primi trams. Ahimè, la solita vita. La vita di ieri, quella di domani. Ecco, un'altra illusione che si sfronda, l'illusione della fine del mondo. La vita è proprio piena di disinganni.